Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Controllori di volo, piloti, autisti e conduttori di mezzi pesanti o pubblici, ma perché no anche medici, militari, operai, tutte queste persone possono compiere un errore per semplice stanchezza o stress o sovraccarico mentale con conseguenze anche pesanti. Questa sera allora parliamo di Nina. Nina è una forma di intelligenza artificiale capace di accorgersi se un controllore di volo è eccessivamente stressato ed eventualmente intervenire per sostituirlo almeno in parte. Nina è stata realizzata in Italia nell'ambito del progetto europeo Cesar VPE, volto appunto a migliorare il controllo del traffico aereo dal consorzio costituito da Università della Sapienza di Roma, Scuola Nazionale Francese per l'Aviazione Civile e la società italiana di consulenza Deep Blue. Per parlarci di questo progetto abbiamo in linea il professor Fabio Babiloni dell'Università Sapienza, che è anche uno dei massimi esperti italiani e non di neuroingegneria. Buonasera Babiloni. Buonasera, buonasera. Senta, la prima cosa che le chiedo è come fate a monitorare lo stato mentale di una persona, in questo caso il controllore di volo? Ah, lei si deve immaginare di avere, poniamo degli elettrodi sulla testa come una cuffia da pallanuoto, si ha presente quando andiamo in piscina, certo. Ci mettiamo quelle cuffiette. Lei immagini una cuffietta simile con degli elettrodi, con delle dischetti che si appoggiano sulla testa senza provocare nessun danno. E che cosa misurano? Misurano l'attività cerebrale della persona e come misurano il mormorio di fondo dell'attività cerebrale della persona durante il suo lavoro. Ecco, la cosa più simile nella vita, diciamo, di tutti i giorni che può capitare è fare l'elettroencefalogramma. Si misurano esattamente questi segnali emessi dai neuroni. Senta, e quanti stati mentali siete in grado di riconoscere ascoltando appunto questo rumore? Guardi, durante la sperimentazione che abbiamo fatto lungo questi 2 anni siamo stati capaci di riconoscere 3 stati mentali corrispondenti a un affaticamento molto elevato, un affaticamento intermedio e uno stato di relativo rilassamento, più l'occorrenza del sonno oppure l'occorrenza di uno stato emotivo molto intenso. D'accordo. E immagino che si possa, volendo, andare avanti e identificare stati mentali sempre più raffinati. Sì, poi l'idea è esattamente quella, okay. Di fornire sempre più stati possibili al controllore. Ecco, veniamo a questo punto a Nina, questa intelligenza artificiale. Qual è il suo compito? Soprattutto le chiedo quando appunto viene stabilito che il controllore di volo è effettivamente in una situazione di stress eccessivo. In effetti, quando viene rilevata questa situazione di estremo stress, l'intelligenza artificiale entra in gioco sbrogliando le cose più semplici. E lei deve immaginare che il controllore deve far atterrare tanti aerei contemporaneamente o in fila ravvicinati. L'intelligenza artificiale può sbrogliare cose semplici in modo da alleviare il compito del controllore. Questa è l'idea generale, okay. Perché se poi l'automazione è troppo spinta, poi la persona si trova spaesata sulla nuova situazione. Diciamo che in generale nei sistemi anche molto complessi c'è molta automazione per gestire i sistemi complessi. Questo vale per un controllore di volo, ma anche vale per chi controlla, non so, una centrale elettrica o situazione una rete elettrica. C'è tanta automazione, ma contemporaneamente non vogliamo mai rinunciare ad avere un anello umano là dentro che possa prendere decisioni, che spesso diventa però proprio l'anello debole. Lo è, però d'altra parte il controllo dell'uomo deve rimanere preponderante, perché poi i sistemi automatici possono mantenere in aria tantissimi aerei, ma poi se accade un qualsiasi tipo di errore, per l'umano è molto difficile porre poi dopo rimedio. Entrarci una volta che ci si è affidati troppo all'automazione. Che altre applicazioni sono possibili? Immagino ci stiate pensando, insomma. Sì, sono possibili applicazioni per l'addestramento dei piloti, ma nella classe più ampia del termine, quindi non solo di aerei, ma anche di piloti di metropolitane e di mezzi di trasporto in generale. Il cervello dell'uomo è sempre lo stesso, quindi la possibilità di capire quando si affatica lo rende un concetto trasversale a tutte le applicazioni. si deve pensare che nel futuro, quando ci guarderanno fra 20-25 anni, penseranno a questi tempi, penseranno quanto eravamo naif nel far volare oggetti da centinaia di milioni di euro con controlli sofisticatissimi e senza che l'oggetto, in questo caso l'aeroplano, sapesse nulla dello stato emotivo cerebrale del pilota sopra. Noi bisogna che si chiuda questo anello, certo, fornendo queste informazioni al dispositivo. Alla macchina. Va bene, grazie professor Fabio Babiloni. Grazie, buonasera. Va bene, ci fermiamo qui e ci risentiamo domani. Buona serata. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.